notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. La metto così: chi guarda Masterchef sa che c'è la Mystery Box, no? Che arriva a... Vedo che quando la butto sul Renzese, quando parlo in modo politico, dormite tutti. Però adesso Masterchef, Mystery Box. Arriva una scatola e dentro non sai che cosa c'è, ma devi fare con quello che c'è. Mi spiace dirlo, ma la Mystery Box è quello che accade con il Porcellum. Tu non sai chi entra dentro. Apri la scatola e trovi un po'... Perché non l'hai letto, perché non l'hai visto, perché non l'hai messo sulla scheda. Non si smentisce mai nel suo modo di comunicare, cari ascoltatrici e cari ascoltatori. Renzi, avete sentito, praticamente la politica è come Masterchef, ci trovi dentro il Porcellum nella scatola misteriosa. E oggi era particolarmente in forma, nel senso, penso che abbia parlato ininterrottamente per più di un'ora, forse un'ora e mezza, non so se esagero, ma una cosa del genere, tanto che a un certo punto ho perso anche, diciamo, il filo. Renzi oggi era la direzione del PD e era il momento cruciale in cui voleva decidere, voleva che il suo partito prendesse una linea definitiva sull'Italicum, sulla riforma della legge elettorale, che dovrebbe essere calendarizzata, credo, verso fine aprile, il 27 aprile, se ricordo bene, l'aveva detto qualche giorno fa. Sì, e vuole che, insomma, tutto il partito voti a favore senza che ci siano poi delle modifiche né alla Camera né al Senato. È stato un, diciamo, un incontro abbastanza dibattuto. Si sapeva che la minoranza era sul piede di guerra, semplicemente la minoranza non ha votato. E diciamo è passata la linea di Renzi. Di questo parleremo molto, ne parleremo con un esponente del PD e anche con una politologa, e poi parleremo anche di una vicenda che è una storia sportiva, professionale, ma anche di vita, quella di Schwarzer, Alex Schwarzer. Vi ricordate il marciatore che era stato sospeso per doping, i suoi pianti, vi ricordate in TV, l'ex fidanzata Caroline Costner che a sua volta è stata sospesa per squalificata perché non l'ha denunciato. Insomma, una vicenda molto particolare. Lui torna a volersi ricandidare per le Olimpiadi 2016, vedremo se è possibile. Tra l'altro però ha ottenuto la fiducia di un allenatore coi fiocchi che è un simbolo dell'antidoping da anni in Italia. Parleremo di queste cose, dopodiché vi avverto che lunedì andremo in onda in versione ridotta, perché poi c'è una nuova rubrica alle 21.45 relativa agli autotrasportatori, ma potete sentire naturalmente anche se non siete degli autotrasportatori, se non autotrasportate nulla. Direi di iniziare adesso, però vi ricordo che ci sono sempre in ogni caso i due canali per i vostri interventi, che sono la pagina Facebook di Effetto Notte, che è sempre lì per voi, oppure i messaggi al 349-238-6666. La domanda che vi voglio fare stasera è di carattere, per una volta, un po' psicologico, nel senso che dal 23esimo congresso dell'Associazione Europea di Psichiatria è emerso che i cittadini europei, ma in particolare anche in Italia, 4 su 10 soffrono di una sindrome d'attacco esterno-interno, cioè da una parte la paura degli attentati terroristici islamici dell'ISIS, all'interno della crisi che non demorde, della disoccupazione che difficilmente diminuisce. Anche voi vi sentite tra questi 4 su 10? Che stato d'animo avete rispetto a queste minacce? Intanto vi racconto la giornata. La riforma elettorale, la direzione approva la proposta di Renzi di non modificare l'Italicum alla Camera, la minoranza non ha partecipato al voto. Tangenti, arrestato il sindaco PD di Ischia e un dirigente indagato, chiama in causa anche D'Alema, lui precisa nessun illecito. L'aereo precipitato, Andreas Lubitz era in cura per tendenze suicide. Economia, vola la fiducia delle imprese, a marzo al top dal luglio 2008, in lieve aumento anche le attese future sull'economia, ma i consumatori non ci stanno e dicono i dati Istat sono inverosimili per il paese reale. La sentenza sul delitto di Perugia, lo sfogo di sollecito dopo la soluzione, e ora non chiamatemi mai più assassino, dice. Pordenone, esplode un termovalorizzatore, morto un operaio di 50 anni. E per lo sport, come vi dicevo, dopo il doping, la scommessa di Schwarzer preparerà Rio 2016 col professor Donati. Partiamo quindi con la politica, dalla direzione del PD che si è tenuta oggi, nella quale c'è stato il confronto essenzialmente sulla legge elettorale e ha vinto la linea di Renzi. Non si ricuce lo strappo sull'Italicum, la direzione PD sancisce l'ennesima spaccatura, si va avanti, la mozione del premier segretario viene approvata dall'unanimità, la legge elettorale non si modificherà alla Camera nella terza lettura, ma la minoranza non partecipa al voto. Matteo Renzi non retrocede e va avanti con la riforma, anche perché giudica un errore fatale tornare al Senato dove i numeri non sono così certi. Io trovo quindi fisiologico e normale che noi chiudiamo la nostra discussione sulla legge elettorale. Credo però che entro il 27 aprile dobbiamo essere in aula, come è stato calendarizzato dalla Capigruppo, e che a maggio dobbiamo mettere la parola fine a questa discussione. Ma la minoranza insorge. Alfredo Dattorre reagisce dicendo che la fiducia è un ricatto, Speranza vede rischi di scissione all'interno del partito, Stefano Fassina paragona le direzioni nazionali PD al monopartitismo nordcoreano, mentre Gianni Cooper lo spiega così la decisione di non votare. Però io non mi arrendo ancora oggi all'idea che su un tema così decisivo, le regole della democrazia, la prima unità, la prima fondamentale unità non si debba e non si possa cercare e trovare all'interno di questa nostra comunità. Nella relazione Renzi critica anche gli altri leader politici, non lascia il monopolio della sinistra ad altri, dice il Premier, e poi accusa Landini e Salvini di essere diventati soprammobili della TV, mentre Grillo da minaccia è diventato sciacallo. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Vedo già un messaggio sulle modalità comunicative di Renzi anche oggi. Matteo scrive al 349-238-6666, Masterchef, Mystery Box, quando parlo renzese, beato lui che si diverte, raccapricciante, dice Matteo. Ma proseguiamo, il dibattito politico oggi è stato animato anche da una nuova inchiesta per tangenti. È stato arrestato il sindaco PD di Ischia in Campania, nelle carte è spuntato anche il nome di D'Alema, che però non è indagato. È accusato di corruzione il sindaco di Ischia Giuseppe Ferrandino, arrestato con altre 10 persone. Uomo del PD, presidente dell'ANCI Campania, è indagato nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Napoli su tangenti pagati per la metanizzazione dei comuni dell'isola ad opera della CPL Concordia, società modenese tra le più antiche cooperative russe, operante a livello internazionale come gruppo cooperativo multiutility che si occupa di energia in tutti i suoi aspetti. L'inchiesta, cominciata nel 2013, ha portato alla luce, secondo l'accusa, un sistema di corruzione basato sulla costituzione di fondi neri in Tunisia da parte della CPL Concordia, con cui retribuire pubblici ufficiali per ottenere i favori nell'aggiudicazione di appalti. I magistrati, per delineare il comportamento della CPL Concordia, fanno riferimento ai rapporti della società con fondazioni e politici, in particolare con Massimo D'Alema, che viene chiamato in causa in una delle intercettazioni da Francesco Simone, dirigente della cooperativa, che sottolinea la necessità di investire nella Fondazione Italiani Europei, dove D'Alema sta per diventare commissario europeo. L'ex premier non risulta indagato, viene indicato come uno che si sporca le mani. Laura Vigiano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli. Reagisce subito Massimo D'Alema, prima una nota, poi delle dichiarazioni a margine di un convegno in provincia di Salerno. Sono offeso e indignato per essere stato chiamato in causa in una vicenda nella quale sono del tutto estraneo, dice l'ex presidente del Consiglio. Ed ancora, la giustizia non può avere come fine quello di sputtanare le persone, ma deve avere come fine la ricerca dei responsabili dei reati. Duri commenti, come prevedibile, delle opposizioni. Arrestato il sindaco di Ischia, scrive su Facebook Di Maio 5 Stelle, che aggiunge il partito di Renzi lo aveva candidato da indagato anche alle elezioni europee, a dimostrazione che il loro ridicolo garantismo fa acqua da tutte le parti. Quindi il leader della Lega Nord Salvini, questa volta su Twitter: tangenti, cooperative, camorra, corruzione, in galera il sindaco di Ischia e altre 9 persone, compagni che sbagliano, e Renzi, domanda Salvini. Di torbido legame tra le coppe la sinistra parla la Meloni di Fratelli d'Italia, che poi chiede una commissione d'inchiesta sul sistema delle cooperative nel nostro paese. Per il governo interviene il ministro del lavoro Poletti, se ci sono delle responsabilità, spiega, vanno valutate dalla magistratura, e se ci sono delle persone che hanno sbagliato è giusto che paghino secondo la legge. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E c'è una nuova grana giudiziaria per Marcello Dell'Utri che riguarda la sua passione per i libri antichi. L'ex senatore, attualmente in carcere, risulta indagato per ricettazione. 20.000 tra libri e documenti antichi datati tra 1400 e 1800 è il patrimonio sequestrato a Marcello Dell'Utri, attualmente detenuto nel carcere di massima sicurezza di Parma per concorso esterno in associazione mafiosa, dai carabinieri del nucleo di tutela del patrimonio culturale di Monza. Il sequestro è stato eseguito oltre un anno fa. Da allora gli inquirenti stanno cercando di ricostruire la provenienza dei volumi, tra cui testi molto antichi di grande valore, acquisiti dall'ex senatore in periodi diversi. I libri sono stati trovati in parte nella biblioteca della Fondazione di Dell'Utri, attualmente temporaneamente chiusa in via Senato a Milano e in parte in un magazzino di deposito all'Open Care in via Piranesi. Dei 20.000 volumi, circa 3.000 farebbero parte della collezione privata di Dell'Utri, tenuta nelle sue pertinenze con libri rari anche del 1400. Le indagini, tuttora in corso, hanno consentito di accertare, si legge nel comunicato dei carabinieri, la presenza di opere asportate in epoca e con modalità ancora ignote da biblioteche pubbliche ed ecclesiastiche insistenti sull'intero territorio nazionale. L'indagine è nata dalla vicenda del saccheggio della storica biblioteca dei Girolamini nel centro di Napoli. Secondo il PM di Milano, che ha coordinato l'inchiesta, Luigi Luzzi, non sono però stati trovati collegamenti con i volumi sequestrati all'ex senatore. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E passiamo all'economia. Vola a marzo la fiducia di imprese e di consumatori. Una carrellata di buone notizie dall'Istat dopo i dati positivi sul lavoro diffusi dal Ministero pochi giorni fa. Quello sulla fiducia delle imprese sui massimi da luglio 2008 è un indice in deciso miglioramento a marzo e sale a 103 dal 97,5 di febbraio. La crescita riguarda tutti i settori, in particolare la manifattura, ordini e produzione, che passa a 103,7 da 105, segnando un record da giugno 2011. Quello sulla fiducia dei consumatori si attesta sul livello più alto da quasi 13 anni, non era così da maggio 2002. È una conferma, ma ci vuole prudenza, secondo il ministro del lavoro Giuliano Poletti, alla quinta edizione di Tutto Lavoro organizzata dal Sole 24 Ore. La conferma di un trend che da un po' di mesi si è attivata, anche se noi sappiamo che le cose in coda ad una crisi tendono a non essere stabilizzate. Occupazione in crescita, ma potrebbe essere necessario trovare altri soldi per il bonus assunzioni. E se nel primo bimestre del 2015 c'è stato un ritmo di 150.000 assunzioni a tempo indeterminato al mese, da marzo in poi la velocità potrebbe salire. Per il ministro Poletti non si tratta di dati dopati dall'incentivo previsto dalla legge di stabilità e, con una battuta, si augura perciò un aumento del budget previsto per il bonus assunzioni. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E torniamo a parlare della vicenda dell'aereo precipitato, perché Lufthansa, che è proprietaria della compagnia dell'aereo Germanwings, quello precipitato sulle Alpi francesi, sta valutando la possibilità di cancellare i festeggiamenti per il 60° anniversario della compagnia, che è stata fondata nel 1955. Questo ovviamente in segno di rispetto nei confronti delle vittime della tragedia sulle Alpi francesi. Intanto arrivano nuovi dettagli sulla salute di Andreas Lubitz. Persona a rischio suicidio. Così Andreas Lubitz era stato classificato addirittura prima del rilascio della licenza da pilota dai medici che lo avevano in cura. Il trattamento psicoterapeutico era stato comunque concluso prima dell'inizio del percorso professionale e nessuna visita successiva aveva riscontrato problematiche analoghe. Ad annunciarlo la procura di Düsseldorf in un'attesa conferenza stampa. Si aggiungono così nuovi dettagli alla tragedia di martedì scorso, per la quale proseguono senza sosta le ricerche di prove e resti delle vittime sulle Alpi francesi. Parallelamente, un centinaio di investigatori sono occupati nella commissione speciale insediatasi a Düsseldorf per indagare le cause dello schianto. Sempre secondo la procura tedesca, al di là dei problemi psichiatrici, non sono emerse finora possibili motivazioni sul folle gesto, né legate all'ambiente familiare né a quello lavorativo. Per cercare di fare luce ulteriore sullo schianto si continua a cercare la seconda scatola nera, si teme però che possa essere rimasta irrimediabilmente danneggiata. Intanto a Bruxelles la Commissione europea torna sulla questione della sicurezza in cabina. La raccomandazione su almeno due persone dell'equipaggio in cabina per tutta la durata del volo è temporanea ma effettiva da venerdì. Prima di decidere come andare avanti con eventuali regole, attendiamo la conclusione dell'indagine sull'incidente aereo, ha dichiarato un portavoce. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E siamo alla cronaca di un morto e un ferito. Il bilancio dell'incidente è avvenuto quest'oggi davanti al porto di Formia tra un peschereccio e una nave cisterna. Poi un'altra notizia di cronaca invece a Pordenone, in Friuli Venezia Giulia, c'è stata un'esplosione in un termovalorizzatore. Lo scoppio è avvenuto all'interno dell'impianto di Spilimbergo. È morto un operaio di 50 anni che era dipendente dell'azienda, stava lavorando in un serbatoio con un collega ferito lieve. C'è anche da segnalare uno sciopero, quello del trasporto pubblico, quello di oggi, il trasporto pubblico locale indetto da sindacati di base in diverse città italiane, a Torino l'estensione fino alle 22, quindi fino alla fine praticamente di effetto notte. Stop al pieno di benzina in autostrada invece domani e il 1° aprile. Scatta alla mezzanotte di domani la seconda tornata di sciopero dei gestori delle aree di servizio. E poi per chiudere una notizia che riguarda lo sport. Vi dicevo all'inizio, Alex Schwarzer, il marciatore azzurro squalificato fino al 29 aprile 2016 per doping, annuncia di volersi preparare per le Olimpiadi del 2016. Ce lo farà con il guru dell'antidoping Donati. Poi parleremo di questa vicenda. Vi ricordo intanto Il numero per i messaggi che è 349-238-6666, la pagina Facebook di Effetto Notte, vedo già dei vostri messaggi su questa paura di cui hanno parlato i psichiatri all'Associazione Europea di Psichiatria Internazionale. Elena Tagliabue dice no, bisogna essere fatalisti, nel senso la paura di essere braccati all'interno e all'esterno, all'esterno dal terrorismo islamico, all'interno dalla crisi, bisogna essere fatalisti e guardare gli anni passati, in fondo stavano molto molto peggio coloro che ci hanno preceduto, diciamo negli ultimi 150, 200, 300, 400, fino a 500 anni, insomma Elena è una che vede il bicchiere mezzo pieno. Adesso quindi parliamo della direzione che si è tenuta oggi del PD, la riunione del Partito Democratico, insomma essenzialmente sulla riforma, il dibattito, il confronto che c'è stato sulla legge elettorale, sull'Italicum, un confronto che si annunciava teso da tempo, insomma dal momento che tra partito e minoranza PD, che tra l'altro un po' spaccata anche al suo interno, si attendeva da tempo nell'aria una resa dei conti oggi. E c'erano i big presenti anche della minoranza, Cuperlo, Bersani, Civati, era assente D'Alema ma perché era stato impegnato già da prima, aveva preso un impegno, insomma sono stati 120 sì, quindi c'è stata una votazione unanime, nessun voto contrario, mentre la minoranza, come dicevo, non ha votato in dissenso. Tra l'altro vedevo avevo visto un'agenzia che riguardava il PD, adesso ne stanno uscendo diverse altre, ma insomma adesso ne parliamo con Emanuele Fiano, che saluto, parlamentare del PD. Buonasera Fiano, che è deputato del PD e responsabile per le riforme e la sicurezza del partito. E c'è anche Sofia Ventura, che sentiremo poi. Sofia, buonasera. Buonasera, buonasera. Politologa, autrice del libro Renzi e il racconto dell'era nuova. So che Emanuele Fiano, tra l'altro, tra poco deve partecipare anche a una trasmissione televisiva, quindi partiamo da lei, Fiano. È vero, c'è stata questa resa dei conti, alla fine da Torre, la minoranza, lo stesso Orfini, presidente del PD, che alla fine diciamo è quello che ha mantenuto forse sino all'ultimo una posizione più di mediazione, avevano avvertito, guardate che c'è il rischio di, se non si trova una linea insomma di mediazione, che si spacchi il partito. Alla fine è prevalsa la linea di Renzi, quindi non si modificherà l'Italicum, almeno per quanto riguarda il PD, alla Camera e al Senato. Siete soddisfatti, Fiano? Ma io sono soddisfatto che il mio partito decida votando in una direzione, che non decida uno da solo, che non ci siano imposizioni, che abbiamo parlato del contenuto di questa legge, perché poi alla fine secondo me tutti hanno diritto di esprimere delle critiche su queste leggi, però alla fine io non conosco altro metodo se non quello di confrontarsi, approvare e apportare alcune delle modifiche proposte dalla minoranza e poi decidere, insomma. Quello che noi, alcuni di noi che sono intervenuti, hanno cercato di dimostrare questa sera è che non è vero che noi stiamo approvando una legge o un insieme di riforme, legge più riforma costituzionale, che porti il paese verso quello che qualcuno ha chiamato democratura, cioè un rischio diciamo autoritario della nostra democrazia. Non è affatto così. Noi stiamo mettendo in pratica un percorso di riforme che il nostro paese, per esempio quello sull'uscita dal bicameralismo perfetto, aveva in pancia e in mente sin dai tempi del dibattito dell'Assemblea Costituente. E per quello che riguarda la legge elettorale, noi abbiamo, anche sulla base di critiche anche preziose che sono arrivate dalla minoranza tra la prima e la seconda lettura, cioè tra la prima votazione alla Camera e la seconda al Senato, ha portato delle modifiche molto importanti. Lei ricorderà bene che la prima versione della legge presentava delle soglie di ingresso in Parlamento per i partiti fuori dalle coalizioni altissime, all'8%, quella soglia non esiste più. Si diceva che il 3% un partito, adesso, il 3%? Sì, che è una soglia più bassa della Germania, una soglia identica alla stragrande maggioranza dei paesi europei, anzi più basso. Noi abbiamo oggi aumentato la soglia oltre la quale un partito può prendere direttamente il premio maggioritario al 40%, che è la soglia considerata da tutti i costituzionalisti una soglia molto degna, cioè un partito che prende il 40% degli elettori può produrre una forza parlamentare, cioè una maggioranza di deputati tale che gli permetta di governare. Se non la dovesse raggiungere, saranno gli elettori comunque con un secondo turno di ballottaggio, come facciamo in tutte le città italiane per i sindaci, tutte le grandi città italiane per i sindaci, saranno gli elettori a decidere chi tra i primi due arrivati sotto il 40% governerà. Noi abbiamo scelto di tenere insieme sia il criterio di rappresentatività. Ricordo che noi avremo dei collegi multipreferenze nei quali voteremo, avremo un primo capolista che sarà bloccato, quindi se il partito in quel collegio raggiunge il quorum prenderà quel capolista, e poi gli altri sceglieremo con le preferenze. Quindi abbiamo cercato di tenere insieme sia le esigenze della rappresentanza sia le esigenze di governabilità, e cioè che in questo paese, dopo anni che lo diciamo, dopo anni che tutti i partiti lo criticano, finalmente chi vince le elezioni, chi arriva prima alle elezioni, possa per un determinato numero di anni, come succede in Inghilterra, in Francia, negli Stati Uniti, in Germania, governare. Perché poi, lo diceva Renzi oggi, e io condivido molto, una democrazia non decidente non è una buona democrazia. Infatti lui dice non è democratura, come ha detto qualcuno i giorni scorsi, è democrazia decidente. Però Renzi ha detto che, appunto, lei parlava di governabilità e ha concluso il suo discorso con questo concetto, dice Renzi, su questo il punto chiave è il ballottaggio, no? Perché permette di avere un vincitore o meno. Poi diceva con l'Italicum almeno il 50% sono eletti con le preferenze, quindi avete tenuto metà e metà. Certo, quindi l'altro 50% continua a essere di nominati. Sì, ha raccontato una cosa che tutti noi, perlomeno dico noi del PD, sappiamo. Cioè, Renzi ha fatto i conti di quanti nel PD in questa legislatura, quindi una legislatura guidata, in cui il partito era a suo tempo guidato da Bersani, Bersani guidò le elezioni per le quali noi ci troviamo oggi in Parlamento, ebbe oltre 100 parlamentari, non ricordo il numero esatto, ma insomma più di 100, non scelti attraverso le primarie. Cioè i partiti di tutte le epoche, ancorché con leggi a suo tempo con le preferenze o proporzionali o no, ma insomma con le preferenze, sceglievano pezzi consistenti della classe dirigente scegliendoli dentro le segreterie. Quando a suo tempo noi votavamo col Mattarellum, cosiddetto Mattarellum, che peraltro bisognerebbe chiamare oggi in altro modo per rispetto al Presidente della Repubblica che ne fu l'estensore, cioè votavamo con collegi uninominali, in quei collegi se lei aveva deciso di votare partito verde e io partito blu e comunque non volevo cambiare idea rispetto al colore del mio partito, in quel collegio io votavo il candidato che la segreteria di quel partito aveva scelto. Votato. Fiano, siccome so che deve andare, mi dà un suo commento sulla vicenda di Ischia, dell'arresto del sindaco PD di Ischia e di altre nove persone, tra cui dirigenti del colosso della cooperativa CPL Concordia? Lo peggiore che ci sia, chi nel nostro partito o in altri partiti con incarichi pubblici ruba o corrompe o è corrotto o è al centro di una concussione o truffa, fa un danno non solo ai soldi pubblici, allo Stato, ai cittadini che sta truffando, ai suoi concittadini, adesso non ho i particolari di questo arresto, ma comunque immagino che si tratti di una di queste fattispecie, ma fa un danno terribile alla fiducia nella politica, che già non avrebbe bisogno di infliggere altri colpi, perché secondo me è la cosa più grave che esista. Noi siamo pagati in politica e siamo anche pagati molto meglio della stragrande maggioranza degli italiani. Sì. Fiano, le faccio sentire per gestire la cosa pubblica. Il bene pubblico. Se rubiamo. Fiano, proprio di corsa le faccio sentire Di Battista del Movimento 5 Stelle che cosa ha detto, se mi dà poi una risposta proprio telegrafica. Loro attaccano noi perché stiamo la frutta, perché non ce la fanno davvero più. Quando parliamo di frutta, se parliamo del Partito Democratico, parliamo chiaramente di arance. Per molti non fa più troppa notizia che ne stanno arrestando una al giorno, però dovremmo iniziare a capire la gravità, quanti soldi nostri si ruba il Partito Democratico, e iniziare a pensare che più che davvero una battuta, però ogni giorno c'è un esponente del PD che si alza e sa che dovrà correre più veloce di una gazzella, e la gazzella chiaramente è una gazzella dei carabinieri. Vi ringrazio e vi chiedo di condividere questo video. Fiano, proprio una battuta. Non mi pare che abbia molto successo in questo momento, né Di Battista né il Movimento 5 Stelle, perché oltre a denunciare cose che scopre la magistratura, bisognerebbe avere anche qualche idea per il risveglio di questo paese, e mi pare che lì siamo scarsi, insomma, come dice anche il giudizio in genere nelle competizioni amministrative elettorali del Movimento 5 Stelle. Noi siamo per la pulizia, stiamo aumentando le norme, le pene, molto le pene sulla corruzione, stiamo allungando la prescrizione sui processi di corruzione, abbiamo messo Cantone, persona specchiata, a capo di un'agenzia anticorruzione che finalmente ha poteri straordinari, stiamo facendo una battaglia. Se in questa rete della nostra battaglia capitano anche dei nostri militanti e dirigenti, ne siamo solo contenti, perché noi vogliamo fare pulizia dentro casa e dentro l'Italia. Grazie Emanuele Fiano. Grazie, buon lavoro. Grazie, buona serata. E adesso invece parliamo con Sofia Ventura. Sofia, tu hai avuto modo di ascoltare lungamente, ricordo, autrice del libro Renzi in cui il racconto dell'era nuova, quindi molto fondata anche sullo stile comunicativo di Renzi, che oggi di nuovo ha ostentato la direzione del PD. Sì, allora, lui ha detto: io non mi faccio ricattare da veti, da blocchi, qui è ora di andare avanti, quello insomma che è stata sempre un po' la sua filosofia, no? Il suo principio, quello che almeno noi facciamo qualcosa. Però sentiamo da Torre, dei dissidenti PD, che cosa ha detto a proposito del ricatto invece che quello del Premier. Tanti di noi non parteciperanno a questo voto che giudicano una forzatura inutile e sbagliata, anch'io. Il ricatto mi pare che lo stia facendo Renzi, legando l'Italicum alla prosecuzione della legislatura e pensando così di comprimere l'autonomia dei parlamentari. Il voto segreto non l'ho proposto né inventato io, ma come chiunque conosce i regolamenti parlamentari sa, è nelle regole della Camera dei Deputati. Chi ha ragione quindi, Sofia Ventura? Renzi che dice qui se no siamo condannati all'immobilismo, nel senso che la politica diventa così, un'attività intellettuale, oppure hanno ragione quelli della minoranza del PD? Direi, insomma, qui... Ma trovare una ragione tra Renzi e la minoranza del PD che gli si oppone è abbastanza difficile. diciamo che innanzitutto io non ho capito perché la minoranza non ha votato e non ha votato no, perché in fondo i voti unanimi non sono mai belli esteticamente, no? Per cui non capisco perché non si voglia contare il proprio voto in dissenso e organizzarsi come minoranza anche attraverso questo tipo di espressione. Io credo che sicuramente il ricatto, appunto, di cui parla da Torre è sostanzialmente quello di mettere la fiducia, il voto di fiducia sulla legge elettorale, e io credo che effettivamente non è non sarebbe idoneo, secondo me, adeguato. Sofia Ventura, tu parli del voto di fiducia che ha voluto quasi, insomma, un voto di fiducia oggi alla direzione del PD, o quello che ha intenzione di mettere invece in Parlamento? No. In Parlamento parlo, cioè una legge elettorale dovrebbe appunto trovare un consenso, non dico amplissimo, però insomma il più ampio possibile, almeno comunque quello del partito che la sostiene. Quindi comunque non credo che sarebbe una mossa, diciamo, costituzionalmente elegante. Mi rendo conto che Renzi vuole portare a casa il risultato, ha molta fretta, perché questo è nello stile di Renzi, non solo avere molta fretta ma poter dire di aver fatto una cosa. Poi sul come la fate, anche sul contenuto, diciamo, lui è piuttosto disinvolto e si preoccupa meno, cioè soprattutto è la bandiera da poter sbandierare, che per lui è molto importante. Da parte della minoranza del PD non vedo tanto il ricatto, cioè credo che debbano decidere poi che cosa fare. Certo che da tempo ormai, a parte il fatto che sono anche divisi tra loro, anche come strategia, stanno un po' facendo la figura di quelli appunto che gridano sempre al lupo, comunque minacciano e poi alla fine non traducono in atti di senso la loro posizione, quindi li vedo in questo senso anche molto deboli, e infatti poi il tutto si risolve sempre con un successo di Matteo Renzi, anche se è vero che poi alcune concessioni le fa la minoranza. Qui devo dire che sulla direzione di oggi è stato piuttosto interessante l'intervento di Giachetti, che ne ha avuto per tutti praticamente, per Renzi, per l'opposizione, e un po' nel suo stile insomma ha cercato di dire il re è nudo, ma tanti re erano nudi, appunto, e una delle cose che sulle quali si è soffermato è stata proprio questa disinvoltura con la quale Renzi da un lato alcune questioni inerenti alla legge elettorale le ha fatte passare per le direzioni, altre invece le ha, diciamo così, contrattate lui con la minoranza, e quindi diciamo ha messo in evidenza un po' questa disinvoltura del, in questo caso del premier, ma soprattutto anche del segretario del partito, per raggiungere il risultato. Quindi diciamo Sofia, che il rischio spaccatura non si vede all'orizzonte. No, ecco. Sinceramente non lo vedo, anche perché appunto la minoranza è divisa, non mi sembra nemmeno che abbia dei progetti così anche identificabili. Devo dire anche le sue opposizioni alla legge elettorale sono molto poco convincenti, la questione dei nominati, per esempio, prima se ne parlava. Sì. Cioè, in realtà, a mio avviso, un'opposizione che andrebbe fatta su quel punto è proprio il fatto che ci sono state introdotte le preferenze. Qui un altro degli elementi di disinvoltura e anche di superficialità, a mio avviso, di Matteo Renzi. Le preferenze, voglio dire, la storia ci ha insegnato che sono un fattore di corruzione, e anche non soltanto di corruzione, ma anche di divisione all'interno dei partiti, no? Pensiamo a quello che era la storia del Partito Socialista o della Democrazia Cristiana, il disastro che hanno fatto le preferenze. È un argomento molto interessante, molto controverso questo, Sofia Ventura, perché credo che gli ascoltatori e le ascoltatrici ancora dopo mesi di questo dibattito non abbiano capito se sono meglio le preferenze o non sono meglio le preferenze. Naturalmente tu dici, a proposito dei guai che hanno fatto negli anni, avremo modo di riparlarne, perché adesso mi dicono che devo chiudere, Sofia Ventura. Intanto ricordo il tuo libro Renzi & Co, il racconto dell'era nuova, se volete immergervi in questa era nuova che stiamo vivendo e che ancora ci aspetta. Ciao Sofia Ventura. L'era nuova è lui che un'era nuova, ecco, non è che è un'era nuova, ecco, non ci tengo a precisarlo. No, è questo, è lui l'annunciatore di questa era nuova, bisogna vedere se concretamente c'è. La riforma elettorale, la direzione approva con 120 sì la proposta di Renzi di non modificare l'Italicum alla Camera. La minoranza non ha partecipato al voto e Emanuele Fiano, qui poco fa a Effetto Notte, ha detto ha prevalso la democrazia decidente. Tangente, arrestato il sindaco PD di Ischia, un dirigente è indagato, chiama in causa D'Alema, lui precisa però nessun illecito. L'aereo precipitato, Andreas Lubitz, era in cura per tendenze suicide. L'economia, vola la fiducia delle imprese in marzo al top da luglio 2008, poi la sentenza sul delitto di Perugia, lo sfogo di sollecito dopo la soluzione, dice ora non chiamatemi mai più assassino. Lo sport, dopo il doping, la scommessa di Pfizer preparerà Rio 2016 col professor Donati. Proprio di questo parliamo, mentre ringrazio Luca per il suo messaggio al 349-238-6666. Questa storia di sport e di vita, anche di travaglio personale di Alex Schwarzer, il marciatore azzurro che era stato squalificato, vi ricordate, prima dei giochi di Londra 2012 per doping, si vuole riscattare, vuole fortissimamente riprovarci, ma e spera che ci sia uno sconto alla sua squalifica che dovrebbe durare fino a fine aprile 2016. L'aveva già preannunciato a febbraio questa sua intenzione ed è in contatto, anzi praticamente ha creato questo connubio come allenatore col professor Donati, che è ormai da anni un simbolo dell'antidoping. Ma ne parliamo con Dario Ricci, caro Dario, perché qui ci sono un po' di questioni che bisogna chiarire. Eh sì, cara Roberta, beh, innanzitutto dobbiamo dire che se le intenzioni di Schwarzer non fossero serie, e intenzioni serie nel senso che evidentemente vuol fare le cose per bene e pulite questa volta, Sandro Donati, che è il numero uno dell'antidoping italiano, non avrebbe mai accettato questa collaborazione, perché da 30 anni in prima fila, forse ormai quasi 40, da 30 anni in prima fila sul tema del doping. E, quindi già lui potrebbe essere una garanzia, se ha detto sì. E non a caso all'inizio era piuttosto scettico Donati, sì, nell'accettare questa collaborazione, così come ulteriore nome di garanzia è quello di Dario D'Ottavio, bioclinico clinico di fama mondiale ed ex membro della commissione di vigilanza per la legge antidoping. Anche in questo caso parliamo di un nome di eccellenza, tutti riuniti nel cappello dell'Associazione Libera di Don Ciotti. Un altro elemento interessante, perché proprio Donati ha portato avanti il discorso del legame e dell'interesse delle mafie sul mercato delle sostanze dopanti. Quindi una questione di legalità. Esattamente, non solo legalità nei comportamenti sportivi, ma legalità nel senso più ampio, perché le mafie hanno trovato anche in questo settore gangli e segmenti di mercato interessanti. Ora, a cosa facevi riferimento? Al fatto che è vero che Schwarzer vuole andare a Rio 2016, ma al momento no, perché la squalifica termina il 29 aprile del 2016 e la possibilità di qualificarsi per i marciatori italiani è fino a ottobre 2015. Cosa logica, perché non avrebbe senso tentare di qualificarsi fino all'ultimo in vista poi di una gara ancora più performante su queste distanze, no? Non si possono fare due grandi 50 km di marcia nel giro di 20 giorni, quindi i tempi sono perfettamente legittimi. Cosa può fare Schwarzer? Può, come ha fatto in questi mesi in silenzio, collaborare fattivamente con gli inquirenti, con la procura di Bolzano, che si è interessata chiaramente al suo caso, e in virtù di questa collaborazione cercare di ottenere uno sconto della sua pena dall'Agenzia Mondiale Antidoping. A quel punto dovrà fare il tempo per qualificarsi, e a quel punto è forse la fase sportivamente più interessante, perché vista la presenza di Ottavio e Donati potremo veramente vedere la differenza che c'è tra l'Alex Schwarzer di prima, dopato, e l'Alex Schwarzer di adesso, pulito. Dal punto di vista sportivo, vedere quel differenziale, e magari il secondo potrebbe essere anche migliore del primo, io lo auguriamo, ce lo auguriamo, sarebbe davvero interessante.